siamo nell'agosto del 2001, nella Bassa Padana c'è un paese che è preso da un fermento insolito, caldo soffocante, eppure nell'aria tira questa ventata di ottimismo sul mondo del calcio locale. Il teatro di questo spettacolo è un luogo che è abituato a stare lontano dai riflettori, stiamo parlando di Fiorenzuola, provincia di Piacenza, nota per il casello autostradale e per poche altre cose, squadra che gioca in Serie C2 che sembra destinata a scalare le categorie, che sta sognando di ospitare le più grandi squadre italiane, magari anche europee. Si sogna a occhi aperti a Fiorenzuola nel 2001. Il proprietario è arrivato con grandi liquidità, o almeno così sembra. Pare abbia in mano talenti sudamericani che non vedono l'ora di spaccare il mondo e che sono allenati da uno che ha fatto la storia del calcio. Stiamo parlando di un campione del mondo che ha vinto il campionato del mondo con la maglia numero 10 dell'Argentina sulle spalle, e non è Diego Armando Maradona, ma è quello che ce l'aveva prima di Maradona, che ha lasciato a Diego la maglia in eredità, quella maglia numero 10. Stiamo raccontando Mario Alberto Kempes, eroe di Argentina 78, è uno dei mondiali più complicati e controversi della storia. Bene, Kempes è il protagonista di oggi. Cosa ci faccia a Fiorenzuola? Ve lo spiegheremo dopo. Mi chiamo Mario Alberto Kempes. Sono nato il 15 luglio 1954 a Belleville, una piccola città a sud-est di Cordoba, circondata da generosi campi dove crescono cereali, legumi e grano. Il ricordo più nitido della mia infanzia è quello di me stesso che gioco con una palla di gomma. Credo di non aver giocato con nessun'altra cosa, anche perché non ho mai avuto altri giocattoli oltre la palla. Mario Kempes, figlio di immigrati italiani da parte di madre, con nelle vene il sangue che scorre pieno di calcio, il padre ha giocato in tante squadre della periferia di Cordova e si portava dietro il figlio come mascotte. Mario accompagnava in campo le formazioni, però poi non si fermava mai a guardare la partita, correva fuori a giocare con gli altri bambini, correndo dietro un altro pallone, facendo già intuire che aveva qualcosa di più rispetto a tutti gli altri. Se nasci a Cordova in Argentina, se sei bravo a giocare a calcio, prima o poi dovrai fare tappa al Rosario, che è una delle città più importanti del football argentino, ed è famosa anche perché ospita due squadre, i Newell's Old Boys e il Rosario Central, divise da una rivalità incredibile. Le canaglie del Rosario Central, chiamati così perché si rifiutarono di fare una partita raccogliendo fondi a favore di un'epidemia di lebbra scoppiata nel quartiere dei Newell Old Boys, che infatti vengono chiamati i lebbrosi, talmente rivali da non aiutarsi neanche in quel momento. E lì, all'interno di questa rivalità, sono sfornati, sono partiti tanti grandi talenti argentini che hanno dato molto alla storia del calcio sudamericano. Beh, c'è lui, Mario Alberto Kempes, giovane dalle lunghe leve, gioca in fascia, gioca come seconda punta, segna molto, viene ingaggiato dalle canaglie, dal Rosario Centrale. A metà degli anni 70 diventa uno degli astri nascenti del calcio argentino, due titoli di capocannoniere del torneo e la classica occasione che non si può rifiutare, una chiamata dalla Spagna, dal Valencia. Lui dice subito sì, anche perché in Argentina in quegli anni la vita si sta facendo sempre più complicata. Era il 24 marzo 1976. La nazionale stava giocando a Horšov contro la forte Polonia, semifinalista al mondiale di due anni prima. Il colpo di Stato stava per cancellare il governo assolutamente imbelle e pasticcione di Isabel Martínez de Perón. Ma i militari non tolsero dalla TV la partita. O meglio, in un primo momento fu levata l'elettricità. Poi si decise che il segnale dovesse essere riattivato. La gente riuscì a vedere i gol di Héctor Scotta e del Loco Hausmann e il 2-1 finale. I militari capirono subito che il calcio poteva essere una potentissima arma di propaganda. Jorge Rafael Videla fu nominato a capo della giunta militare che da quel momento avrebbe preso il controllo del paese. Non amava il football, il generale, ma seguì il consiglio dell'ammiraglio Emilio Massera. Anche se ci costerà una fortuna, dobbiamo organizzare il mondiale. proprio quando Jorge Rafael Videla sta per salire al potere, potere preso con la forza, Mario Kempes prende l'aereo e parte per la Spagna. Lo aspetta il Valencia, squadra che da più di 15 anni non riesce a vincere il campionato, vuole tornare in alto al più presto, e Mario si tuffa così nella sua avventura europea e si lascia alle spalle tutto quello che migliaia di chilometri più lontano sta succedendo in Argentina, perché lì sta iniziando la parte dura del regime, la persecuzione, stanno per arrivare i primi desaparecidos. Kempes è a Valencia, non si rende conto di quello che sta accadendo a casa sua, si raccoglie testimonianze telefoniche, parenti, amici che gli raccontano quello che accade, e lui, per non pensarci, si concentra solo sul calcio, segna a raffica con la maglia bianca del Valencia, comincia a farsi un nome anche fuori dall'Argentina, e intanto in patria l'allenatore della nazionale che giocherà quel mondiale, quello del 78, l'allenatore Cesar Menotti, abbiamo parlato di lui, lui ha già deciso che l'uomo del destino sarà Mario Kempes, sarà lui a condurre l'Argentina verso il primo titolo mondiale della sua storia, quello del 1978. La FIFA aveva assegnato il mondiale all'Argentina nel 1973 e non glielo avrebbe tolto. Non c'era la volontà, nonostante le pressioni internazionali. Molto tempo dopo si scoprì che il presidente della FIFA, João Avelanche, aveva negoziato direttamente con la giunta per la liberazione del figlio di un diplomatico brasiliano, Paulo Antonio Paranaguá, e della sua fidanzata. Uno dei tanti nomi di una tristissima e infinita lista, quella dei desaparecidos. Persone che, anche solo per una simpatia politica di sinistra o per la frequentazione dell'università, ma spesso perché incontrati nel posto sbagliato al momento sbagliato, venivano fatti sparire in uno dei tanti centri di tortura e detenzione organizzati un po' ovunque. Il mondo guarda con orrore quello che sta succedendo in Argentina, migliaia di studenti universitari prelevati, fatti sparire nel nulla, probabilmente assassinati, Videla sta sterminando una generazione di ragazzi e il mondo fa finta di niente, e spesso va così. Il mondiale del 78 verrà disputato lo stesso, troppi interessi in ballo, nessuna nazionale che darà forfè, si dà forfè alle Olimpiadi, ma nel calcio nessuno molla perché lì gli interessi sono troppo grossi, c'è solo una macchia, l'uccisione del generale Omar Actis, presidente del comitato argentino per l'organizzazione della Coppa del Mondo, ma è una notizia che in mezzo a tutte le voci di torture, dei desaparecidos con le madri che chiedono notizie dei figli, insomma questa notizia passa in sordina, non colpisce più di tanto l'opinione pubblica, bisogna giocare i mondiali. Mario Kempes risponde alla convocazione del mondiale del 78. E Mario Kempes in quel mondiale troverà la sua consacrazione. L'inizio non è semplice perché è l'unico giocatore di quell'Argentina che gioca all'estero, fa fatica a inserirsi nei meccanismi di gioco di Menotti, peraltro si presenta all'esordio con la barba e i capelli lunghi e non segna. Allora scaramanticamente pensa che possa aiutarlo a sbloccarsi un cambio di look, si taglia la barba, lascia i baffi, ma la musica non cambia, ancora zero gol, all'ennesima partita senza reti. Menotti, superstizioso anche lui, gli ordina di tagliarsi anche i baffi. Da quel momento in poi Kempes non si fermerà più. Mondiale del 78, circondato da un bell'alone di mistero, alimentato dalla situazione politica dell'Argentina, e poi c'è un altro mistero, che mistero non è. Nell'ultima giornata l'Argentina si contende col Brasile la vittoria del girone, quindi l'accesso alla finale, deve battere il Perù con 6 gol di scarto perché giocano dopo la fine della partita col Brasile, e l'Argentina combinazione vince proprio 6-0, e il portiere del Perù, un certo Quiroga, nazionalizzato argentino, e in qualche modo insomma non fa certo la miglior partita della sua vita. Poi si dice che fosse un infiltrato, si dice che sia stato minacciato dai militari per far segnare i gol necessari all'Argentina per arrivare in finale. Basta dirvi che da quella partita, per tutti i mondiali successivi dall'82 in avanti, le ultime partite del girone verranno giocate in contemporanea proprio per evitare, insomma, torte di questo genere. La squadra di casa ai mondiali è sempre favorita, però questa volta proprio l'hanno fatta un po' grossa. Ma nel frattempo l'Argentina va avanti. Kempes comunque è il trascinatore della squadra e del suo popolo. Con il Perù aveva segnato una doppietta e che porta l'Argentina, come abbiamo detto, in finale contro l'Olanda. Sulla stessa per Bertoni, che è ostacolato da mezzo, nonostante Zoppi che riesce a servire, ancora Kento, Kento in aria, tiro ribattuto ancora, ancora Kento con la palla, rete rete rete, rete, rete, rete, rete, rete, rete, rete, rete, rete, rete, rete, rete, rete, rete, rete, rete, rete, rete, rete, rete, rete, rete, rete, rete, rete, rete, rete, rete, rete, rete, rete, rete, rete, rete, rete, rete, rete, l'Olanda, simbolo del calcio totale, avevano sfiorato la vittoria perdendo solo per 2-1 la finale con la Germania nel 74. Tornano nel 78 con una squadra leggermente rivista. Non c'è Cruyff, che era rimasto a casa perché era ancora traumatizzato da un tentativo di rapimento che aveva subito in Spagna qualche mese prima, ma comunque ha dei giocatori formidabili, sono affamati di vittoria, sete di rivincita dopo la delusione di 4 anni prima. L'Argentina però, squadra di casa che sta vivendo un momento politico tragico, non può lasciarsi sfuggire la Coppa. Quel titolo va portato a casa a tutti i costi. L'Argentina del 1978 ha proposto il miglior calcio possibile con quei giocatori ed è stato grande calcio, grande e vincente. Ha riunito tutti i migliori giocatori che stavano in patria, anche riconoscendo il valore degli argentini per il concetto di identità, tranne Kempes, che Menotti considerava il migliore di tutti. Kempes non era Maradona, e nemmeno Boccini, e nemmeno Ortega o Aymar. Era un fenomeno di potenza e di esuberanza, non meno di furbizia e tecnica pura. L'Argentina di Menotti era questo. Come l'Huracán di Menotti era lo specchio di Hausmann, la nazionale lo era del Matador Kempes. Gallego e Ardiles organizzavano la circolazione. Ortiz a sinistra con compiti di copertura. Bertoni a destra e due attaccanti, Kempes e Luque. Kempes era Cavani con parecchi anni di anticipo, ma con molto, molto più istinto per la porta. Carlo Pizzigoni in Loco Sport il Football lo descrive così: Kempes è un Cavani con più istinto della porta, istinto che si materializza solo nella seconda metà di quel mondiale, quando lui prende confidenza, segna 2 gol alla Polonia e poi, l'abbiamo detto, 2 al Perù e 2 in finale contro l'Olanda, e sarà capocannoniere del torneo e capitano trascinatore del suo paese, che per la prima volta è sul tetto del mondo. La notte della finale, il 25 giugno del 78, è festa al Monumental de Buenos Aires con Videla e i suoi scagnozzi che stanno stringendo le mani a tutti i calciatori argentini, tutti tranne uno, il numero 10 Mario Kempes, è dall'altra parte del campo, è immerso nell'abbraccio del suo popolo. Sembra un gesto casuale, al momento passa inosservato, e dietro di sé però questo gesto nasconde tanti significati che vanno ben oltre il valore sportivo della vittoria. Mario Kempes è l'unico giocatore dell'Argentina che la notte della finale con l'Olanda riesce a non stringere la mano a Videla e agli altri colonnelli della dittatura argentina. È un momento chiave, un momento di rottura tra lui, che ha trascinato la sua nazionale alla vittoria, e dall'altra parte i simboli del potere di quegli anni. Noi eravamo degli sportivi, giocatori di calcio che in quel momento stavano rappresentando l'Argentina, facendo quello che ci piaceva di più fare, giocare a calcio. Se noi avessimo pensato che al potere c'erano i militari, non saremmo riusciti a fare le cose come andavano fatte. Noi vedevamo la gente allegra, che si divertiva alle nostre partite. Tuttavia non ci sembrava di capire quello che stava accadendo politicamente. A noi la gente sembrava contenta, anche durante la finale, come in tutte le altre serate di quel mondiale. Come altre notti anteriori. E l'Argentina è campione del mondo per la prima volta nella sua storia, al culmine di uno dei mondiali più discussi di sempre. per via di vicende extracalcistiche, anche di, come dire, regolamenti molto malleabili. Il 6-0 con il Perù sta a testimoniare la falla del regolamento. Era già scritto da un lato che poteva finire così, però nessuno pensava a un impatto così forte di Mario Alberto Kempes. Lui, terminato il mondiale, rifà le valigie e torna in Spagna. Gioca ancora in nazionale, non più con la maglia numero 10, perché quella è destinata all'astro nascente, quel Diego Armando Maradona che nel 78 aveva solo 17 anni. Il popolo aveva chiesto a gran voce la sua convocazione. Menotti non se l'era sentito di lanciare il ragazzo in un contesto così complesso, lo ha voluto proteggere e ha deciso di tenerselo buono per il mondiale giovanile, che infatti l'Argentina vincerà qualche mese dopo in Giappone. Kempes in quel mondiale è l'uomo copertina, fisico, secco e slanciato, capelli lunghi, quella voglia di buttare il pallone in rete. Dopo un mondiale da protagonista assoluto arrivano proposte da capogiro per averlo in squadra. Lui però tira dritto, ha dato la parola al Valencia, lì rimarrà prima di iniziare un surreale giro per il mondo. Il falco, il falco, il falco e il gabbiano. Mario Kempes, l'uomo simbolo dell'Argentina campione del mondo del 78, mondiale del quale si è parlato più per i sospetti calcistici e il terrore generato dalla dittatura di Videla. Si è parlato più di quello che di quello che è successo realmente in campo. Kempes si è fatto conoscere al mondo come attaccante rapido, tecnico, con grande senso del gol, è diventato capocannoniere del torneo, ha segnato una doppietta decisiva nella finale con l'Olanda, però al momento della premiazione è l'unico che riesce, perché probabilmente anche altri avrebbero voluto farlo ma non hanno avuto il coraggio, è l'unico che riesce a dribblare non un avversario ma il generale Videla, riesce a non stringergli la mano. Poi lui racconta di una semplice svista causata dalla confusione, ma ovviamente i giornali e la televisione ricamano un altro tipo di scenario su questa mancata stretta di mano, viene interpretata probabilmente giustamente in un altro modo. E probabilmente non è un caso che Kempes vada via dall'Argentina per giocare in Spagna e lì trascorrerà la maggior parte della sua carriera con la maglia del Valencia. Tornerà in patria per un anno, giocherà nel River Plate tra l'81 e l'82, ma poi rientrerà a Valencia, che è casa sua in quegli anni. Poi c'è una parentesi da fine carriera, un paio di squadre austriache, e poi chiude la carriera come giocatore allenatore in Indonesia. Siamo già nel 1996. Mete particolari per il finale, Austria e Indonesia. Lui sceglie queste squadre, questi paesi, non tanto per il valore tecnico o per le motivazioni economiche, ma per un certo senso di libertà che lui ha sempre messo prima di tutto il resto. Era un tipo troppo scomodo, un tipo che parlava forte, chiaro. Per questo è stato costretto ad andare all'estero, sempre con la valigia in mano, ma anche per una scelta di vita. Girò il mondo, cambiando molte squadre, come calciatore e come allenatore. Inseguiva la vita così come ha inseguito per tanti anni un pallone. Una scelta che non è stata una scelta di soldi, di piazze, ma una scelta di orizzonti. Mario Kempes, campione del mondo, è disponibile per allenare in qualsiasi posto, nella piccola città italiana, oppure in Indonesia, oppure in Albania, oppure chissà dove, forse anche sulla Luna, perché questa è la grande forza di Mario Kempes. E questo era un grande esperto amante del calcio sudamericano, Darwin Pastorin, che ci racconta molto bene quello che era Mario Kempes, un anarchico, un uomo libero, ha questa esperienza in Indonesia, allenatore giocatore, dove poteva decidere ovviamente tutto lui. Poi si prende un periodo di pausa, si perdono le sue tracce, forse perché vuole staccare completamente dal calcio. È un uomo con le idee chiare, è uno che non torna indietro facilmente quando prende una decisione. Ecco, qui è stato un po' il colpo magico che abbiamo avuto noi della Global a portare a allenare questi ragazzi, un certo signor Mario Kempes, che a livello calcistico penso che lo conosca tutto il mondo, ecco. Un signor campione e un signor allenatore che magari nella sua carriera non ha voluto offrirsi ad altre platee proprio per la sua, così come dire, per la sua personalità. Non sa, per arrivare ad allenare a certe platee bisogna essere anche un po' servili, per non dire lecchini, ecco, per usare una parola un po' più forte. Ecco, forse il Kempes non lo è, proprio a lui se gli parli quando eri, quando sei stato, ti fa... La voce che abbiamo sentito è quella di Aldo Graziani, nome che probabilmente non vi dirà molto, però Aldo Graziani è una persona particolare, uno come tanti, sulla cinquantina, fa il rappresentante per una società, la Global, società che opera in Sud America e che si occupa di reclutare calciatori per squadre italiane, fa scouting questa Global. Cosa c'entra Graziani con Kempes? C'entra perché è proprio grazie a questa società che Mario Kempes sbarca per la prima volta in vita sua in Italia nel 2001. Non si sa bene a fare cosa, e nel frattempo è diventato un allenatore, è pur sempre un ex campione del mondo, e quindi sarebbe naturale vederlo sulla panchina di una grande del nostro calcio, l'Inter di Moratti per esempio, che cambia allenatori con una certa disinvoltura, ma anche il Milan di Berlusconi, c'è la Roma di Sensi, la Lazio di Cragnotti. Il calcio italiano è molto ricco in quegli anni. Beh, niente di tutto questo, e Kempes sbarca in Italia per un progetto che non ha niente a che vedere col grande calcio, ma che ha l'ambizione un giorno di farne parte. Questo sogno ha come sfondo la provincia piacentina, Fiorenzuola. Mario Kempes è stato ingaggiato per allenare la squadra del posto che sta giocando in Serie C2. È l'inizio di una storia tra le più incredibili, tra le più amare anche del nostro calcio. Sembra uno scherzo, invece è tutto vero. Mario Kempes a agosto del 2001 è il nuovo allenatore del Fiorenzuola, Serie C2 italiana. Un mese dopo crolleranno le Torri Gemelle, ma in quella zona d'Italia tra Piacenza e Parma si parla di questa nuova rivoluzione calcistica arrivata da lontano. Potrebbe quasi spazzare via quella nebbia caratteristica di quelle parti, potrebbe aprire nuovi orizzonti a Fiorenzuola, orizzonti fatti di gloria calcistica e magari anche di grandi palcoscenici. Io tengo molto amore del football, di gloria, così che... Loro hanno molta voglia di giocare, molta fame di arrivare, così che ce la mettono tutta in ogni allenamento, si impegnano tanto. Hanno fatto tantissimi chilometri per arrivare fino a qui. Dobbiamo fare le cose per bene perché Fiorenzuola possa essere contenta del nostro impegno. Ci sono tra di loro diversi calciatori che hanno giocato nella prima divisione dell'Uruguay. Hanno dalla loro una buona esperienza, ma il calcio non è matematica. Dobbiamo continuare a lavorare. Guardando da fuori sembra tutto relativamente facile, ma vista da dentro è un'impresa molto dura. Dico sempre che la Serie A è difficile, ma anche che le categorie inferiori lo sono ancora di più. Speriamo che oggi, con il cambio di proprietà, possiamo scendere in campo molto presto. L'impresa e possiamo già di una vez per tutte giocare. E dietro questa operazione Fiorenzuola c'è un imprenditore milanese, Alessandro Aleotti, un personaggio particolare, fantasioso, aveva già preso in mano il Brera Calcio per farlo diventare la terza squadra di Milano che doveva arrivare in Serie A. Aveva, non si sa bene, era quel confine tra il sognatore e lo sprovveduto. 16 giovani calciatori sudamericani si trovano all'improvviso piombati a Fiorenzuola, armati di grandi speranze, e poi basta poco per far emergere i problemi. Le strutture non sono all'altezza, i ragazzi alloggiano in un agriturismo, non arrivano i soldi, basta qualche settimana e il sogno si trasforma in incubo. Se mangiamo, io penso neanche questa parola, io tampoco più, se non paga, io vado nel mio quarto, mi faccio la valigia e me ne vado. E noi? Come? Io mi faccio la... Io rispondo a lui. Io rispondo a lui. Io rispondo a lui, perché è la mia parola. Io quando vengo a parlare con vosotros, io non hablo perché me invento. E dico, se mangiamo non ve paga, io mi prendo la mia maletta e me ne vado, perché dico la mia parola. È una parola d'onore, non è una parola di merda. Il falco. Il gabbiano. Gabbiano. L'avventura di Kempesh a Fiorenzuola durerà solo 40 giorni, finendo sui giornali italiani come ennesimo emblema di un calcio malato e di un progetto fallito, del solito progetto fallito calcio, che ormai in quegli anni era manovrato più da logiche economiche che da passione per lo sport, e quelle logiche economiche erano anche quantomeno spregiudicate. Insomma, molti degli imprenditori di quegli anni sono finiti male. Non è un caso. La presenza di Kempesh comunque in qualche modo serve a riportare alla luce il 1978, il mondiale dei colonnelli in Argentina, perché Kempesh verrà intervistato da molti giornalisti che gli chiedono cose che allora non gli potevano domandare, gli danno la possibilità di raccontare la sua versione dei fatti e di parlare di quella stretta di mano che non ci fu tra lui e Videla, e anche di come la sua squadra avesse vissuto quella Coppa del Mondo, che era stata vista dalla maggior parte degli spettatori come uno spot brutale di quel terribile regime. A qualcuno di noi, entrando in campo contro l'Olanda, un dubbio è venuto. Si gioca per noi stessi, per la gente, non per giustificare un governo. Alla fine la risposta di Tarantini, un compagno a cui avevano portato via tre amici, è stata questa. E nella squadra la presenza dei militari non era così opprimente. Sì, ogni tanto nel ritiro blindato di José Carlos Paz, fuori Buenos Aires, arrivava in elicottero un colonnello con dei bambini. Noi firmavamo autografi e finiva lì. Quando ho saputo, quando tutto mi è stato chiaro, anche nei dettagli, ho provato un grande senso di impotenza, amarezza, schifo. Ma come si può buttare nel mare un'intera generazione? Li vuoi ammazzare solo perché sono giovani studenti rivoluzionari? Credo che la lezione sia servita. In Argentina potranno mancare latte, verdure e carne, ma non ci sarà più un altro golpe. Kempesh, in un certo senso eroe di due mondi, campione con la sua nazionale, ma anche lontano ideologicamente da quel paese che ha portato al trionfo. Ha vissuto una carriera particolare, una specie di esilio volontario, è andato dove più si è sentito libero di poter stare senza condizionamenti, senza restrizioni, imposte da poteri forti o addirittura brutali come la dittatura dei colonnelli. L'Argentina non era terra per lui. Questo non voleva dire che non pensasse a quello che accadeva a casa sua. Come tutti in quegli anni, aveva perso amici, parenti, aveva sofferto senza rendersi veramente conto di quello che stava succedendo, perché lo guardava da lontano. Forse anche per questo ha scelto una vita itinerante da vagabondo del calcio. A metà degli anni 90 lo ritroviamo in Albania, paese sull'orlo di una guerra civile, e quindi meta certo non ambita da uno che 20 anni prima aveva vinto la Coppa del Mondo. Possiamo fare bene. La squadra ha un buon potenziale, ha dichiarato Kempesh, come se si trattasse di una cosa seria. L'impatto del neo allenatore con le strutture sportive dell'Ushnia è stato disarmante. Gradinate smantellate, campo di gioco pieno di buche, spogliatoi con la muffa alle pareti, la panchina con le gambe spezzate. È orrendo tutto ciò, ha commentato Kempesh. Ma le strutture fatiscenti non sono le uniche cose che non vanno in Albania. Kempesh capisce che c'è qualcosa che non va. Quando chiede al proprio presidente di poter ingaggiare un team manager, si sente rispondere: già ti do una barca di soldi, stai zitto e lavora. La goccia che fa traboccare il vaso è quando in piena guerra civile Kempesh è allo stadio, alza gli occhi e vede che il pubblico è armato, sono tutti pronti a sparare a ogni gol, segnato o subito, e il campione del mondo capisce che non è il momento, insomma, non è il momento migliore per l'Albania, fa le valigie e si allontana rapidamente. Dopo queste esperienze quantomeno particolari in Italia, in Indonesia, in Albania, Kempesh diventa commentatore televisivo del campionato spagnolo per il canale americano ESPN. Non rinnega tutto quello che ha fatto per l'Argentina al mondiale del 78, e lui che ha trascinato l'albiceleste al primo successo della storia, ma che è anche l'uomo che non ha voluto stringere la mano a Videla. In realtà tutto questo l'ha fatto senza mai autoinvestirsi del ruolo di salvatore del popolo. capelli lunghi li porta ancora oggi, i baffi li ha abbandonati e non li ha più fatti crescere. Mario Kempes, uno dei grandi eroi del calcio argentino, uno che ha mostrato in campo di che pasta era fatto, ma lo ha mostrato anche fuori, magari attraverso dei silenzi, attraverso parole dosate e mai banali. Uomo che ha parlato solo quando è stato necessario, si è lasciato guidare più dalle scelte di cuore che dalla ragione, ha girato il mondo, ha visto il meglio e il peggio del calcio, non è sceso a compromessi, anche quando sicuramente sapendosi muovere meglio avrebbe avuto una carriera migliore, più remunerativa, ma non si vive solo di questo. Gli uomini veri antepongono altri valori, e la sua storia la potete riascoltare in podcast, come tutte le storie del Falco e il Gabbiano. Ciao, a domani. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Fabio Donolato. Produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza.